essere. E andrai, cattitina. Come ti lavori? Prima non mi sono sentito, ma penso che esca bene. Ma Roger, va che va bene, non è che si può pretendere di avere una modulazione normale, cattitina. Pure il segnale è pieno proprio. Sì, grandetti la cosa. Non credo di andare, c'è le stesse finali che monto io. Che fa? Sì, va bene, va. Fa Roger, so che magari ne ha qualche d'uno in più, hai capito? Che da 20 fatto. Sta bene, Meda? Sento benissimo, non ci stanno problemi. Ok. Vabbè, sta a posto. Se sta parecchio la fanguala. Basta, lo metti lo giusto. E si è troppo forte, viene più presto. Già lo so, già. Quanto arrivo di segnale? Di segnale quando ti arrivo? Andiamo a 8, dai, 29. Fa pure giusto, E se è movimento. Infatti, ci sarà un po' di queste vie anche perché sono in movimento. Sì, sempre 9 più 10, qualche volta arrivi, superi anche 9 più 10, arrivi quasi 9 più 20, c'è sempre forte qua. Eia, mi fa piacere, da. Caffa, diciamo che a fare di ex in FM. Tiro. Quando entrano quelle, come si chiama? Quella di amatori da fuori. Ok, Bella! Ehi, c'è accendo due fischietti per vedere se c'era qualcuno. Capo. Ciao ragazzi, va bene, eravate fuori zona. Lui stava rientrando dal lavoro. Però è uscito prima dal lavoro perché stava piovendo. attaccata. No, perché l'ho sentito, lui era DM addirittura. Sì. E quando più vuoi far andare via prima? Beh, è un bene anche quello. Cosa vuoi già? Se sta più bello, non mica possiamo quasi mettere la pioggia. Beh, io ce lo faccio. Quando lavoro mi trovo in casa. Non si può lavorare, noi pure quando siamo dentro non c'è più una ricolta, devi lavorare. Vabbè, voi mi pagherete la cassa indica se non lavorate. La scappa, cambi due c'è la boccante lì. Abbiamo scambiato due parole, ha detto che si è piantato con la parabola del televisore, tutto ok, si vede tutti i programmi, è tutto bene. Adesso dice che stava chiudendo perché si doveva, non so, saldare un filo dell'apparato, non so che cosa. Guarda che non la sente in terra, c'è sempre stato il senso del mio che abbiate più malato. Infatti io avrei piantato prima, sì, ovviamente la parabolica perché si muore, però avrei piantato anche la testa, capito? Io avrei messo tutto quanto insieme. Avrei messo lo stesso palo dell'antenna alla parabola. Ma allora, sarò riuscito anche più forte da dove lui. Avrebbe fatto da ripetitore. Ma allora, proprio da ripetitore avrebbe fatto la parabola. Hai scherzato, ma almeno avrebbe fatto preso due piccioli con una fata. Ah beh, quello sì, quello è vero, avrebbe preso due piccioli con una fava, ma purtroppo non interessava, vuol dire, più televisori, giustamente. Comunque ha detto che metteva tutto a posto, poi si faceva un altro giro, saliva a uscire sulla punta. Ma ricordare come si rubare l'antenna e fa più. Ah, a questo punto già conviene mettersi un palo, un palo di 3 metri, 4 metri, si piace sulla zona e si è a posto. E anche di più, anche 12 metri, perché lui è basso e più c'è la montagna da fare. Ma pare che si comprasse un tubo docente, ripeto, una fesseria da 6 metri. Si piace sulla zona, lui ha voglia di toccare qua. I difettosi che ci sono da Marcino li vendono poche lire. Ah, infatti, ce lo sa chi sopra lì, oppure mitigate quello che vuoi, però vai tranquillo con quei tubi, li si mette a voglia arrivare qua. Sono difetti di verticale così, di gratitudine. Ah, infatti basta una levigata con la moletta, con la spartolina, poi gli dai l'antirugine e la cornice sopra e la gatta e la buglia. Infatti no, sono delle spuglie e roba del genere, no? E quando sono così non possono vedere, allora devo lavarci di cresco, mamma. Allora, non è quello. Siamo portato la terra pure, lui, bravo, ognuno sa di sé. Magari non ha tempo, è andato in fine da ieri. Già che non riusciva niente, non so che dopo il figlio doveva suonare o suona, l'ha invitato a accompagnare, no. Ha chiuso la macchina, ha tolto le chiavi, le ha messe nella, diciamo, l'ha chiusa il passaporte, ha detto, oggi proprio non esco per niente. Vabbè. Dovevo andare a suonare via Carlo Alberto con il figlio, che è il figlio del campione italiano di fisarmonica, suona tutte le musiche casalinghe, tutte le musiche di... intelligente, la fisarmonica mi piace molto già, a te. Avanti Luigi. Sì, già oggi stavo provando un apparato, stavo provando un apparato di Gianni Gippone. Vabbè, sì. L'avevamo andato a riparare, gliel'ho ritirato, lo stavo solo provando, facendo una prova, la nuova. E dammi un controllo di segnale invece. Sì. Prova, guarda, vediamo 2-3, prova, cavolo. Vabbè, 15, la riuscita poco. Confermo, buonasera, confermo. Confermi, ciao Mario. Buonasera pure a te, non sapevo chi era in radio, dai, l'ho ritirato ieri, lo stiamo provando. Ah, va bene, dai, riprendo dopo dall'altro mio. aspettiamo. Oh, buongiorno per lui. Ciao, Mario. Auguri a tua famiglia se non ci sentiamo domani. Cavalcata, io mi prendo sempre, diciamo, sono prevenute certe cose. Le dico meglio prima che non farne niente, così. Gianni, anche io mi è per caso mi sono qua perché ando come tirando, mia figlia ha tirato il figlio e ne ha tolto e ha rotto la spina dell'albero di Natale, capito? E so con mio figlio che lo stiamo mettendo a posto, l'ho acceso, non mi ero fatto a posto, ho sentito a voi, porca la musica, e si entra a salutare a Gianni, almeno anche io ricambiati al centro, buon Natale, buon anno, buona Epifania, buon tutto a tutto il QRA e un bacione ai giovanotti. Grazie, grazie Mario. Ha passato come tu desideri con tutta la famiglia, per i figli attorno, eccetera, eccetera. Beh, fa sempre piacere, quando si sento degli amici, fa sempre piacere, anche tu lo sai, io lo sto accendendo questo periodo poco e nulla, però quando lo accendo, se sono degli amici, entro a salutare. Ho fatto una spazzonata e vi ho sentito su 21. Pagava. È fatto bene Mario di entrare, fatto bene. C'era anche Falchetto, Falchetto, prendi tu così salutiamo Mario. Ehi, salutoni Mario, vai, da parte mia, a te, guerra familiare, tutto accetto, vai, e passa un buon Natale, un buon primo anno, un buon tutto, vai, io penso che se ascoltiamo anche per farci gli auguri, vai, comunque te li anticipo, se sa mai che, capito? Scusa perché a te non ti ho sentito, ha sentito a Gianni e a Luigi, a te non ti avevo sentito, però fatto bene che sei entrato, ricambiati al centro, anche a te buon Natale, a tutto il QRA, i bambini, capito, e i vecchietti, a tutti augurando come ci leviamo tutti. A parole, no, riprendi già. È strano, infatti se la sentisci di essere, solitamente tu sei mattutino, tu a una certa ora ti danno lo sfratto. Oh Gianni, non è che mi danno lo sfratto, naturalmente se sto modulando anche loro che hanno diritto di far pulizia, capito? E così che disturbo. Tu lo sai dove ce l'ho io, in camera da pranzo, c'ho tutto, e così che entro a far pulizia e mi allontano. Dopo mi ci butto a una parte e comincio a fare la mia passione di fare parole incrociate, che lo sai, abituato nel quel QTHA quando non c'era nessuno per ammazzare l'ora. Ah no, è così che è continuando così, e qualche volta, già so che nulla accendendo io, non dormivo una volta, mattina e sera, sera mattina, sì, tu lo sai, rimanevamo sino alle 2, alle 3 del mattino, okay? E adesso sono finiti i fumati. Acai, avanti Vera! Non c'era Vera! Ma cioè, ho confuso, scusa, perché? Ehi, acciapparogelo là, non c'è problema. Vabbè, e si fa anche per ammazzare il tempo e le parole crociate. Viene la mente sveglia Mario, va bene anche quello, va bene tutto, nella vita bisogna fermare un po' di tutto. Acai, va bene, va, riprendi Mario. No, grazie a Dio, come memoria sono tranquillo, o forse perché sono le parole incrociate, cose varie, non c'ho problemi per quello, già, sempre allerta, sempre di prima linea. Sì, sembra così, però fare parole incrociate, diciamo, sviluppa la mente, perché devi anche sapere le cose, a volte ci va per intuito, ma a volte devi anche sapere le risposte giuste, quindi deve avere anche una certa, una certa capacità nel farle, ecco. Logico, no, ma da giovanotto sono stato sempre appassionato io, capito? Così che nessuno in casa, né mio padre, né miei fratelli, né mie sorelle, nulla, sono stato io da ragazzo, da quando avevo 15-17 anni, ho incominciato a fare e ho continuato. Ogni mese, quei 5-10 10 blocchetti mi li compro e me li faccio, e così siamo felici e tranquilli. Fai bene. Solitamente a casa erano le donne che lo facevano, mia sorella e mia mamma le fanno le bruciate. Passavano il tempo così, leggendo, facendo le cose, e poi mia sorella era un cranio, una dopo l'altra le faceva. Così sono io a leggere leggo, però no, non mi piace, ormai mi sono affezionato anni e anni, la sera io mi difesa al cane, tu lo sai, la notte quando mi toccava di giorno la notte me li facevo, ce l'avevo là, però che non c'era nessuno, perché lì era l'ingresso di tutti gli impiegati e cose varie, a vederti in servizio facendo parole incrociate non stava bene. Ma quando non c'era nessuno ci avevo sempre la scorta. Vabbè, è stato per ammazzare il tempo, quindi lui. Quando ti vede fuori dentro, c'è un poverino Mario, noi andiamo in città e tu lì dentro. Perché? Gianni, perché è un amico, è stato sempre un amico, io gli facevo le fotografie la sera, al calare del sole, all'imbruire, e lui per ricompensa la mattina tante volte mi portava il caffè macchiato alle 6, alle 7 del mattino. Vedi, è quello un gesto buono, è quello un gesto di amicizia, è così, è quello un gesto puro, sacro da... Naturalmente no, è una persona come si deve, una persona seria, è tutto, capitola. Non voglio andare di male agli altri perché tutti sono amici e simpaticoni, ma che più che meno se lo merita di più. Avanti già. Grazie Mario per i complimenti. Come tutti i mortali abbiamo perso i difetti, non si pregi, ma in linea di massima l'ho preso anch'io quello difficile, forse anche troppo bravo. E perché io avevo la greffa, Mario Mao faceva la guardia giurata al Banco di Sardegna, in Piazza Castello, io facevo la greffa lì, Mario ci mandava via gli altri, ma non già ci lasciava perché conosceva a me. E quando cominciavo con le ragazze, mi accendeva il faro. Dopo che erano Gianni e le fotografie che mi faceva con le telecamere a quelli che erano fuori a segnalare le persone che c'erano o non c'erano. Chissà che fine ha fatto la biondona. Io, anzi credi, te l'ho chiesto, sarà un po' di mesi fa, io pensavo che non ti eri sposato con quella lì. Invece mi avevi detto che è tutta un'altra persona. No, non mi sono sposato con quella. Lei ne ha avuto altre tre dopo quella lì. No, non era quella lì. Ma che vista vai, lì delle donne è stato, porca la miseria. In gioventù si fa quello altro. Purtroppo lo faceva e purtroppo di forza. Non per lui, non purtroppo, non per lui che piaceva le donne. È logica. Tutto è buono, tutto fatto. Attendete, mi sta chiamando mio figlio che a mantenere un filo che sta saltando lo spinotto, perché mia figlia stamattina l'aveva acceso della fretta, invece di inchinarsi a tirare la spina, ha tirato il filo e ne ha tolto e ha tagliato il filo della spina, e così che lo stiamo mettendo a posto. Riprendete voi. Quindi siamo uguali. Ciao. troppo. Un po' tardi. Conoscevo lui la parola da frattempo. Conoscevo parecchi di quelli giurati di Maggia, io già mi comportavo bene che già. Massimo qualche pomiciatina, ma non è che facevamo nulla di male. Beh, positivo, l'importante è che non si facesse nulla di male. Pensi qua quello che vuole entrare, forse non si è accorto di stare modulando, avanti. Ah, la portata di quel guasto, Ma, qua ciao, allora come sei le giovani? Mario! Dimmi Gianni, sta mantenendo il filo, sta saldando. Ah, sì, 19 A, c'è tipo la portata, 19 A se deve sentire, dai. Come? Non ho capito. 19 A. Dai, finisce di mettere la portante, almeno cerca a pensare le giornate che sono e lascia la gente in pace, porca miseria. Mario. Se li vedi non ci scendo. Ciao Gianni, ciao. A coso, a... Ah no, io vi saluto e chiudo. Vabbè Mario, ci sentiamo, ma ci sono questi un caro. Cosa vuoi fare? Fabetto! Dimmi già. Al solito canale, vai, cavaliere, 19, vai. E positivo. Ci sei, sì. Papà, che ci sono. Ma si gioca con la macchietta e la bimbina. Ma vada, ma che ignoranza di persone, ma quando mai c'è stato un uomo? Ma proprio era stupido, poco fa, prima ero su 5, no? Già, giusto per leggere uno. E c'era un uomo con la portante, ma da roba da parte, ma che se ne vanno a fare qua le pappa. Questa gente qua si diverte così. Aspetta che sto calando.